ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Vane Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, rieccoci con una nuova puntata di Personal Best per parlare di running e di uno dei temi caldi delle ultime settimane, la ripartenza delle gare su strada, soprattutto quelle che interessano al vasto popolo dei runner amatori orfani ormai da tempo di tutte quelle gare che solitamente animano il calendario e soprattutto le domeniche delle migliaia di appassionati. E oggi facciamo un po' il punto con il condirettore del mensile Correre, Daniele Menarini, bentornato. Grazie e buona domenica tutti voi. Allora Daniele, partiamo dalla notizia che ha un po' fatto tremare, diciamo, il calendario autunnale delle gare su strada, per quello che è rimasto, no? La cancellazione della maratona di Valencia. Sì, che era la speranza residua a livello internazionale, in quanto Valencia è posizionata un po' più avanti, la prima domenica di dicembre, e quindi si è andati avanti un po' con la speranza che almeno la seconda New York, la maratona di New York d'Europa, potesse farcela. E invece siamo stati un po', come dici tu, gelati in queste nostre speranze. Addirittura si pensava che almeno venisse adottato il modello Londra, una maratona dei top runner, dove io non partecipo, credo nemmeno tu, forse partecipa Ivana, però insomma nemmeno quella, proprio niente totale. Quindi sì, è stata una notizia che ci ha un po' colpito. Nel frattempo, per quanto riguarda casa nostra, l'Italia, da pochi giorni è stato aggiornato il protocollo organizzativo delle gare su strada, che sembra abbia delle maglie un po' più larghe, diciamo così, rispetto alle precedenti. Ce le siamo fatti raccontare da Fabio Pagliara, segretario generale della FID, la Federazione di Atletica Leggera, a cui abbiamo chiesto quali sono le novità di questo nuovo protocollo organizzativo. Ma innanzitutto chiaramente dobbiamo essere sempre in linea, che è la cosa più importante credo, con quelle che sono le intenzioni del Ministero, quindi massima sicurezza, ovviamente massima attenzione e responsabilità. Con questa logica abbiamo fatto vari aggiornamenti da quando è iniziata la situazione pandemica fino a oggi. Abbiamo avuto la fortuna e anche, diciamo, il piacere di essere stati considerati come best practice della World Athletics per i nostri disciplinari. La maratona di New York ci ha preso anche come esempio. L'ultima modifica del disciplinare tendono ancora una volta in qualche modo a rendere più possibile la partecipazione sempre appunto in sicurezza. Faccio un esempio: le griglie sono state aumentate di partenza a 500 persone, sempre con ovviamente la mascherina in partenza e sempre con un distanziamento. Le griglie possono partire, diciamo, di seguito con soltanto purché distanziate, saranno lo stesso organizzatore che a secondo della realtà locale, quindi a secondo sia di quelle che sono indicazioni del governatore sia della logistica, perché capite perfettamente che una partenza a Venezia, a Mestre è diversa da una partenza a Firenze, quindi è chiaro che hanno belle piccole differenze in ciascun caso. E quindi sostanzialmente si parte con la mascherina dopo 500 metri, ma probabilmente riusciremo a fare meglio nel prossimo disciplinare. Saranno buttate le mascherine, quando dico buttate dico ovviamente non per terra, ma saranno ovviamente sistemate, buttate in appositi contenitori. Insomma, stiamo cercando da questo punto di vista di rendere possibile la corsa da un lato, ma specialmente venire un po' incontro a delle esigenze che sono anche, diciamolo francamente, di posti di lavoro per chi fa queste attività, di PIL, perché parliamo di turismo sportivo, insomma di tantissimi aspetti che fanno sì che questo sia un comparto che va assolutamente tutelato. Da un lato, quindi ripartendo, ripeto, in massima sicurezza, dall'altro cercando di consentire agli organizzatori di muoversi. Aggiungo una cosa che credo sia decisiva: gli organizzatori in questo stanno facendo uno sforzo immenso, i costi aggiuntivi per organizzare un evento in sicurezza ci sono e sono tanti, quindi è evidente che da parte nostra come federazione c'è la continua richiesta al Ministero, all'autorità cittadina, agli enti locali, di capire, proprio perché c'è questo problema, che riteniamo sia necessario qualche intervento non di assistenza ma di supporto. Immagino l'apertura del credito d'imposta per gli organizzatori, immagino per esempio la possibilità di una deroga da parte del governo di concedere alle autonomie locali di poter non fare pagare una serie di servizi, i vigili urbani o il terreno. Quindi occorre in questo momento una grande alleanza per continuare, ma certamente stiamo piano piano riprendendo e muovendoci verso una normalità in assoluta sicurezza. E l'ultima parola però spetterà sempre al prefetto, insomma. Certamente sì, noi abbiamo un'opera di supporto, di disponibilità tecnica, di cercare di far sì che tutta la parte, diciamo, tecnica sia in linea con quelle che sono le indicazioni ovviamente degli organi preposti. In particolare è ovvio che quindi ogni regione potrà avere delle piccole differenze a seconda di quello che il governatore dirà, e poi è chiaramente il prefetto che darà non soltanto il via all'autorizzazione ma anche ad eventuali limitazioni numeriche, magari come hanno fatto in altre parti d'Europa, cioè sopra i 5.000 iscritti non ci possono essere, sopra i 10.000 no, quello che sarà. E invece qual è la vostra sensazione? Insomma, c'è voglia di tornare alle gare nonostante la situazione incerta legata al coronavirus? Ma guardi, io su questo sono molto sincero. È evidente che in questo momento un blocco tra virgolette psicologico c'è, quindi è chiaro che giustamente penso le persone hanno ancora qualche perplessità, qualche dubbio, sia in ordine ai temi riguardanti diciamo, alla sicurezza, sia alla certezza che ci possono essere gli eventi. Quindi una delle cose che dobbiamo fare, noi abbiamo già fatto e ufficializzato il calendario del 21, dare delle certezze agli nostri atleti diventa fondamentale. E l'altro aspetto che va valutato invece in maniera quasi sociologica, è evidente che la gente si sta abituando a correre diciamo in libertà, in maniera un po' più virtuale, e regge contro se stessa e quindi vede se configge se stessa anche soltanto guardando la propria applicazione. Quindi è evidente che dobbiamo stare attenti al fatto che ci si abitui a correre non più in gare ma soltanto in gruppi di amici. Questo vale anche per tutto un po' lo sport italiano, e quindi questo è un passaggio molto delicato che ha degli aspetti positivi, perché aumentano le persone che fanno sport, che fanno movimento, che creano benessere, ma è evidente che poi dobbiamo trovare il modo più corretto per incanalarli comunque in attività competitive, se no alla fine perderemmo numero di partecipanti. Daniele, quindi c'è voglia di correre ma c'è anche un po' di titubanza nel mettersi alla partenza, però oggi si riparte, 500 metri di distanziamento come abbiamo sentito, mascherina, e si riparte con la mezza di Monza, la Ravenna Park Race, la Roma riparte a 10 km, diciamo che la normalità è un'altra cosa, ma per chi ha voglia di correre è già qualcosa appunto. Sì, è già qualcosa, l'ultimo aggiornamento del protocollo FIDAL ha dato la svolta, perché queste misure che abbiamo sentito sono quelle che permettono di gestire un numero di partecipanti un po' più grande, nel quale ricadono moltissime manifestazioni. Non siamo ancora in grado di aiutare ad esempio le nostre grandi maratone italiane, però giustamente tu hai citato l'episodio di Monza, che è comunque una gara di notevole spessore, e in questo senso la federazione ha favorito, anche se dobbiamo noi podisti, runner, cambiare un po' le abitudini, abituarci ad esempio a fare le iscrizioni online perché per tanto tempo non ce le faranno fare sul posto, abituarci a rinunciare all'idea degli spogliatoi perché sarà sempre più difficile farli, eccetera. Su questa è la parte positiva. La federazione secondo me a questo giro ha fatto quello che poteva fare nei confronti delle corse su strada, che hanno sofferto molto più degli altri settori dell'atletica. Per contro, come dicevi tu, sta un po' crescendo la paura, usiamo proprio un termine che è un po' duro ma che è molto reale, nel senso che quando si decide di andare in un certo posto a correre è una decisione familiare, questo ripartire e ricrescere dei contagi, adesso poi siamo pronti a far partire con la scuola, quindi ci prepariamo anche un po' a questo momento difficile, in molti di noi genera un po' di paura, per cui è un po' una contraddizione in termini. Da una parte non vedevamo l'ora di tornare a gareggiare, adesso che quasi possiamo, permettimi questo quasi, abbiamo un po' di perplessità per questo motivo, perché i contagi sono ripartiti. Secondo me ci dobbiamo abituare a fare anche delle gare diciamo magari più vicino a noi, in cui ci sono meno iscritti, magari queste gare più particolari, più piccoline, no? Cosa ne dici, Daniele? Cioè, più che altro bisogna che le organizzano. È vero, Ivana, anche perché le gare più piccoline hanno anche meno pubblico, che è un po' la vera incognita, nel senso che giustamente le norme FIDA sono tutte concentrate su noi corridori, mi ci metto anch'io per quanto lento, ma in realtà parte del problema delle manifestazioni è proprio il pubblico, che invece è estremamente libero di assembrarsi, di fare assembramento. e questo fra l'altro è uno dei motivi per cui le autorità competenti, il prefetto e il sindaco, spesso dicono di no, dicono ok le vostre regole, ok le vostre partenze a 500 ogni 3 minuti, però il pubblico chi me lo controlla? Sì. E le grandi gare nostre finalmente hanno tanto pubblico, quindi sì, è vero Ivana, le gare piccoline hanno più possibilità di essere sicure in questo momento. Quindi Daniele, dobbiamo aspettare ancora di sapere se si farà a Venezia, Firenze, le nostre maratone autunnali di cui siamo molto affezionati. Eh sì, facciamo tutti il tifo Ivana e vedremo quello che accade a partire proprio dalla maratona di Venezia che Lorenzo Cortesi, che sentiremo tra poco, speriamo che confermi quella grande determinazione che lo ha accompagnato durante tutta l'estate. La maratona di Venezia è stata secondo me l'unica che non ha mai rinunciato all'idea di fare la propria manifestazione. Saremo quindi alla fine di ottobre e dopo avremo in sequenza la maratona di Ravenna che ancora è disponibile, sta cercando di farla, parliamo dell'organizzatore Stefano Righini. Verona invece abbiamo visto la settimana scorsa, sì, che ha rinunciato, e poi subito dopo sarà il momento di Firenze. Sono le gare che abbiamo nel cuore, poi addirittura dopo si va avanti perché a metà di dicembre c'è Reggio Emilia che tra l'altro è anche campionato italiano di maratona e quindi è particolarmente sentita da tutti, tra l'altro è anche un anniversario per loro, la 25esima edizione, mentre Pisa, per chiudere il giro del calendario delle grosse, già da tempo ha detto di no. E infatti, parlando dei due grandi eventi, abbiamo fatto riferimento a Venezia e Firenze, e noi proprio su questi due eventi abbiamo sentito appunto Lorenzo Cortesi, general manager di Venice Marathon, e poi il presidente di Firenze Marathon, Giancarlo Romiti. La situazione è fluida, noi ci stiamo impegnando in tutti i settori, abbiamo anche delle belle novità da presentare, quindi la situazione organizzativa procede tutta forza. È chiaro che siamo in un momento molto complesso e complicato, per cui dobbiamo un pochettino vivere anche quello che succede intorno. Importante lavoro è stato fatto in questi mesi con la federazione, che è uscita, dico finalmente, in senso positivo, con delle nuove linee guida che ci consentano di poter organizzare l'evento in tutta sicurezza. Naturalmente adesso le parole spettano ai prefetti e noi stiamo naturalmente vagliando tutte le varie componenti che portano alla realizzazione di un evento così grande e complesso come può essere la Venice Marathon. Venice Marathon tra l'altro passa attraverso 4 comuni se non sbaglio, per cui magari forse si complica un po' la situazione. Esattamente, passa attraverso 4 comuni, non è che si complica, ma vuol dire che devi acquisire più pareri, poi la parola finale aspetta comunque sempre al prefetto. Chiaro che se qualche comune storge il naso, il prefetto magari fa più difficoltà, però devo dire che da parte nostra tutte le istituzioni, dalla prima all'ultima, vogliono che l'evento venga fatto, anzi potrebbe essere anche un po' l'evento della rinascita anche della città di Venezia, che in questi mesi ha subito fortemente un calo turistico. Adesso abbiamo avuto le prime spinte con la mostra del cinema, la gara storica, il premio Campiello, quindi siamo nella piena ripartenza e quindi noi ci impegniamo affinché questo avvenga al meglio e in sicurezza naturalmente. E invece Lorenzo, quando arriverà la decisione finale sul correre o non correre? No, beh, noi abbiamo già deciso, per noi si corre, cioè, se qualcuno ci dirà che non si può correre prenderemo le nostre decisioni, tutelando naturalmente i nostri runner, i nostri sponsor e tutto quello che va fatto, ma per noi il 25 ottobre c'è la Venice Marathon. Oggi a gruppi di 500 che partono ogni 10 secondi, 20, quello che sarà, e con rispetto delle normative ministeriali si fa. L'unico divieto è sul pubblico, ma insomma noi non abbiamo grosse difficoltà, cercheremo di limitarlo soprattutto nelle zone di grande afflusso, ma ormai la gente è intelligente, si è abituata, no? Sì. Cercheremo magari di dare una buona visibilità televisiva piuttosto che di sfruttare molto la parte digitale, però per noi oggi è confermato. Di diverso avviso invece è la posizione di Giancarlo Romiti, presidente della Firenze Marathon. Allora, la situazione organizzativa oggi, le dico subito, non è definita, per il semplice motivo che da una parte c'è, diciamo, la predisposizione per il tipo di struttura che siamo a voler organizzare l'evento, fortemente voluto anche dall'amministrazione, tanto per intendersi. Dall'altra parte c'è una situazione, diciamo così, avversa in questo momento, secondo il nostro parere, alla responsabilità o alla problematica del coronavirus, che in questo momento particolare, che ancora c'è le scuole, ancora ci sono tutte queste cose, non si può secondo noi fare pressioni nemmeno sulle realtà territoriali che sicuramente hanno volontà di fare ripartire, non possiamo farlo. Ci siamo posti una scadenza di decisione che noi speriamo sia positiva e le dico che abbiamo già un piano di sicurezza adeguato pronto, mi sono spiegato come discorso, però qui lo dico e qui lo nego, in pratica noi in questo momento non vorremmo fare nessun comunicato, per semplice motivo che non vogliamo essere né negativi né positivi, per cui per questo le dico che materialmente se devo dargli una dichiarazione gli dico non siamo adesso in grado di dare una comunicazione, lo daremo prima della fine di settembre, punto. E capisco che i maratoneti hanno necessità di organizzarsi e quanto altro, però insomma è una libera decisione e ci hanno eventualmente tempo per decidere di venire oppure no. Le volevo chiedere anche che insomma c'è il rischio di perdere una buona fetta di iscritti, no? Perché magari leggiamo che c'è voglia di correre, ma anche immagino che ci sia molta titubanza in alcuni nell'idea di mettersi in mezzo a gruppi. Ascolti, se noi entriamo nel mezzo adesso rischiamo di fare il partito di quelli pro e quelli contro, e noi non vogliamo avere questa problematica in questo momento. Nel momento in cui decidiamo ci prendiamo rischi. E quindi insomma, come abbiamo sentito, traspare tutta la difficoltà nell'organizzare un grande evento come la Maratona di Firenze, soprattutto in questo periodo, e poi effettivamente tutti i runner stanno chiedendo informazioni in merito a quando si saprà una data certa, se la gara verrà fatta o meno. Altre gare storiche che ho visto che sono saltate, c'è stato quel tentativo di spostare Castelbuono a settembre che poi insomma è stata annullata, e poi anche il Giro al Sasso, no? Un'altra classica che si corre a Trento. Praticamente le due più antiche assieme alla notturna di Firenze di San Giovanni di cui si parlava prima, sì è vero, lì è forse il problema in più, azzardo a dire, poi mi darete anche la vostra opinione, è che queste grandi gare o gare storiche sono tutte nei centri della città, dove paradossalmente è ancora più difficile, perché ad esempio vediamo che pian piano sta ripartendo il mondo del trail running, dove sì ci sono dei problemi di assembramento, però c'è la possibilità, una volta scaglionate le partenze, di avere dei percorsi dove il distanziamento non è un problema. Lì, anche lì, sono saltate gare grosse, vi ricorderete, è saltato il Tour de Jarson, il Monte Bianco fin da subito ha detto ok no, perché il problema grosso sono i punti di ritrovo, i punti di soccorso che sono i rifugi, e lì non è possibile moltiplicare gli spazi per garantire il distanziamento e moltiplicare il servizio di soccorso. Però anche lì, tornando a quello che diceva Ivana, i trail più piccolini, quelli più tranquilli, quelli più morbidi, piano piano stanno ripartendo. In fondo anche la Ravenna Park Race, di cui si diceva all'inizio, è un trail senza dislivello, però è un trail, è una corsa in natura dove le cose sono un po' più facili rispetto al centro delle città. E poi stavo pensando anche che anche il triathlon è ripartito, no? Però magari in centri più piccoli come a Mergozzo, domenica scorsa c'è stato il 70.3 che comunque è andato molto bene e sono riusciti a farlo, quindi secondo me veramente magari ci dobbiamo abituare ad andare a correre nei posti più piccoli e a correre anche in un certo modo, vedendo magari dei posti meravigliosi che non pensavamo di avere in Italia. Esatto, perché appunto il 70.3 l'hanno fatto, però ad esempio l'Ironman di Cervia hanno dovuto rimandarlo, perché di nuovo siamo nella dimensione Valencia, nella dimensione dei grandi appuntamenti, e diventa tutto più complicato. E per le altre grandi gare internazionali, Daniele, quasi in chiusura siamo, c'è quasi un po' la sensazione che le maratone primaverili slitteranno all'autunno prossimo, no? Da quello che stiamo leggendo un po' che... Purtroppo sì Silvio, e anche lì ci ha un po' messo la mosca al naso Londra, che quando ha annunciato che comunque confermava la gara solo top runner, nell'ultima riga del comunicato, in modo che non si vedesse subito, c'era scritto London Marathon vi dà appuntamento al 3 di ottobre del 2021, e allora la terza o quarta volta che lo rileggi dici ma come ottobre, ma Londra è sempre stata in aprile, in tempi normali, e da lì poi dopo sappiamo che anche Boston ha l'intenzione di fare l'edizione 2021 in autunno, e questo, e Tokyo pare che abbia la stessa in tensione, e questo inevitabilmente ci preoccupa un po', perché loro hanno grandi studi a disposizione e fanno scelte strategiche con molte informazioni a disposizione, mi ripeto, e diventano un po' quelle che fanno tendenza, per cui questo ci preoccupa un po', sì. Infatti. E nel frattempo, in mancanza di gara, abbiamo fatto indigestione di record, però, Daniele. Ah, che bello. Devo dire che sono rimasto ammirato dai nostri atleti. Beh, i record sì, li abbiamo visti, ad esempio nel trail i grandi atleti, non avendo gare, si sono sfidati su queste storiche vie. Penso ad esempio al Monte Rosa di Collet, dove si è misurato con De Gasperi, che è un grandissimo, che proprio in questa ultima estate ha chiuso la sua carriera. Però eravamo insieme agli assoluti di Padova, e davvero devo dire che i ragazzi dell'atletica hanno dimostrato grande carattere, a partire ovviamente da Yema Krippa, che ha preso definitivamente il testimone di Antivo, ma non soltanto lui. Con quel record sui 5.000, e sì, quello è stato quel record mancato solo per 12 centesimi di secondo sul miglio. Insomma. Mamma mia, lì è stato. Mamma mia. Che bello da vedere, bellissimo. Allora, in chiusura, Daniele, invece, parlavamo di record, c'è chi non aspetta maratone e mezze maratone, ma fa tutto da sola, come Ivana Di Martino, no? Ivana, cosa combini? Lei se lo può fare. Allora, per la prossima settimana, precisamente il 17 settembre, cercherò di scalare, io dico così, scalare perché è uno scalare, lo Stelvio, e partirò dalle Terme di Bormio, e ci saranno due giudici che cercheranno appunto di, cioè convalideranno il tempo. E niente, 21 chilometri fino allo Stelvio, sono come ben sapete 42 tornanti, pendenza del 7,3% di media. Facile allora. Sì, facile. Ma più che altro è il dislivello, sì. Il dislivello, insomma, si arriva a 2700 metri, quindi insomma. Ma che rapporti monti, Ivana? Guarda, soprattutto stavo pensando che, sai, dal decimo all'undicesimo c'è questo il 14% di perdenza. Sì. Mamma mia, ci vorrebbe la ferrata lì. Daniele, questo è un percorso di un'altra classica, di una mezza maratona tutta in salita. Sì, perché è una mezza maratona tutta in salita ed è tipico in tempi anti-Covid, quando si arriva all'estate il mondo della corsa su strada si trasferisce sulle Alpi, ad esempio Vestone in provincia di Brescia sulla strada per Dobbiaco c'è un'altra mezza maratona bella impegnativa, e lo Stelvio in questo senso è un po' il simbolo della corsa su strada d'estate, è veramente un percorso molto stimolante e molto impegnativo. Complimenti Ivana. In bocca al lupo, quindi. Grazie, sì, viva il lupo. Allora, siamo in chiusura, grazie mille Daniele Menarini. Grazie a voi, buona domenica a tutti. A presto. Allora, anche per oggi è tutto, noi ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona domenica. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.